Letture di Radio 24. In Alto Adige è guerra contro il business della carità. Alcune amministrazioni comunali hanno deciso di multare i mendicanti, diffondendo nello stesso tempo le mappe che indicano i luoghi dove i poveri possono avere un pasto gratuito. Ma la carità si insorge. Non bisognerebbe mai vietare gli aiuti ai poveri. Dicono che nelle giornate più fortunate, lungo le vie affollatissime che portano ai mercatini di Natale, il guadagno di un mendicante possa raggiungere anche i 100 euro. Ma gli accattoni, denunciati nei giorni scorsi a Bressanone, una decina, quasi tutti provenienti dall'est Europa, a quella cifra non arriveranno mai. L'elemosina, infatti, è finita sotto sequestro, secondo la linea dura annunciata dal comune altoatesino, che prevede anche una multa per un massimo di 160 euro, proprio in vista del periodo natalizio, quando il fenomeno dell'accattonaggio aumenta in modo esponenziale. Siamo dovuti intervenire, ha spiegato il vice sindaco Gian Lorenzo Pedron del PD, perché l'insistenza di queste persone aveva raggiunto livelli intollerabili, soprattutto nei confronti delle persone anziane. Non che sia un fatto isolato. La settimana scorsa era accaduto a Rovereto, dove era stato sequestrato il denaro raccolto da un giovane rumeno, mentre a Trento il sindaco sta valutando la possibilità di adottare un'ordinanza simile e a Bolzano l'amministrazione invita i cittadini a non dare soldi a chi chiede la carità. Nella nostra città nessuno muore di fame. Invece di una manciata di monetine, che servono solo a lavarci la coscienza o, peggio, ad arricchire i signori del racket, date a queste persone la mappa con i luoghi dove possono trovare un pasto. Di quelle mappe, giusto per chiarire il fenomeno, ne hanno stampate 47.000 copie. Ma il sequestro non trova tutti d'accordo. Nella maggior parte dei casi i mendicanti sono persone in grave difficoltà, dice Heiner Schweighofler, direttore della Caritas dell'Alto Adige. La scelta di aiutarli o meno dovrebbe essere una libera decisione di ogni cittadino, ma di certo non esiste il diritto a un'immagine della città libera dalla povertà. Ancor più duro Pier Giorgio Bortolotti, per anni responsabile di una mensa per i poveri a Trento, che parla di furto legalizzato ai danni di chi riceve la carità, ma anche di chi dona. Se io voglio dare un euro a una persona, non vedo perché debba intervenire il comune. Non è accettabile. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Selva, Trentino e Alto Adige, alla guerra della carità, multa ai mendicanti ed elemosina sequestrate, da Repubblica del 3 dicembre. Letture di Radio 24. Dopo aver attraversato amore e dolore, sono in uno stato d'animo in cui mi sta a cuore raccontare quello che ho capito fin qui. Così, nella prefazione al suo libro Io nascerò, Loretta Goggi spiega le ragioni che l'hanno portata a scrivere la sua autobiografia. Sono le parole di una donna che ha ritrovato con fatica la forza di andare avanti, dopo la perdita del marito e compagno di una vita, Gianni Brezza. Il suo Gio, come lo chiamava lei. Quando Gio se n'è andato, ho sofferto tantissimo, ho sofferto da morire, come tutti coloro che perdono una persona cara. Non ho dato di matto, non sono andata in escandescenze. Soffrivo soprattutto perché avrei voluto sapere, essere certa, di aver fatto per lui tutto il possibile. Poi mi sono spenta. Non avevo più voglia di niente, mangiavo una volta ogni 24 ore. Dormivo, vivevo soltanto. Così come possono vivere quelle piante che soffrono per mancanza di acqua o di un po' di sole e sopravvivono a stento. Non me la sono presa con nessuno, non fino al punto di urlare «Perché? Perché? Perché?». Sapevo, quando sono tornata a Roma, che Joe aveva un tumore, che era assolutamente incurabile, che non aveva speranza. Me lo avevano detto, eppure lui è andato avanti altri 3 mesi ed è morto senza soffrire. Ha sofferto perché è stato privato della sua dignità, della sua vitalità e del suo amore per gli amici, per l'allegria, per la follia, per l'energia. La sua malattia gli ha tolto tutto, la fame, il poter bere, gli interessi. L'ha asciugato. Eppure ringrazio il Signore di non avergli fatto affrontare dolori terribili, atroci sofferenze e aver ascoltato le mie preghiere. A parte la grazia della guarigione, che chiunque avrebbe chiesto, io pregavo che almeno non soffrisse. E le preghiere aiutano. Ho pregato tanto, tutte le notti. E Joe i dolori di questo terribile male non li ha avuti. Dopo l'annichilimento, oggi riesco a pensare che la persona che se ne va per la terra, ma non se ne va per te. Si muore per la terra, non si muore per l'anima. Perché tutto ciò che quella persona ti ha dato, quello che hai imparato e che hai ricevuto, quello che hai condiviso, i ricordi, le gioie, i dolori, restano con te, fanno parte di te. Ho sofferto per il fatto che non ci fosse, che non fosse più con me, che mi mancasse da morire. Il periodo di buio seguito alla sua scomparsa mi ha schiantato a terra. Ma mia sorella, la mia famiglia e quel Dio che ho sempre tanto invocato mi sono venuti in soccorso. Ho permesso a Dio di venire a tirarmi su. Mi sono abbandonata al dolore, ma poi anche alla speranza, alla forza della vita. Daniela mi ha coinvolto all'inizio in tante piccole cose. Poi mi ha portato a fare un viaggio in Argentina, da mia nipote. Ho ricominciato a vivere a poco, un giorno dopo l'altro. E poi mi sono rimessa anche la maschera, quella corazza con cui ho sempre pensato di affrontare tutto. Mi sono rimessa anche a lavorare. Ogni tanto naturalmente le lacrime scendono, ogni tanto torna alla mente qualche ricordo che invece mi fa sorridere. Però è strano, continuo ad abitare nella nostra casa, in mezzo alle sue cose, in mezzo a tutte le foto di sempre che hanno riempito il nostro appartamento e la nostra camera da letto. Dormo nel nostro lettone dove ho dormito con lui fino all'ultima notte e non ho quel senso di vuoto disperato che credevo mi avrebbe colto prima o poi. Non ho l'angoscia di dormire o di stare in casa senza di lui. Quante volte litigo ancora oggi a voce alta con lui, come se ci fosse veramente. E quante volte sono tornata a sdraiarmi con lui su quella spiaggia a riconoscere le stelle e le costellazioni. È il piccolo carro! No, è il grande carro! Avevi ragione tu, Gio. Era il grande carro. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Loretta Goggi, Io nascerò, la forza della mia fragilità. Edizioni PM, 210 pagine, 16 euro. Lo scorso 14 novembre, gli attivisti che da 2 anni occupano il Teatro Valle di Roma organizzano un convegno dal provocatorio titolo «Tuteliamo gli autori o la SIAE», nel corso del quale sostengono che il monopolio che viene riconosciuto dalla legge alla SIAE è illegittimo. Non si è fatta attendere la risposta di Gino Paoli, presidente della SIAE, che dichiara «Non accettiamo accuse di illegalità da chi è chiaramente illegale». Il cantautore ribadisce poi che il collettivo del Teatro Valle, che ora sta per diventare una fondazione privata, gode di vantaggi arroganti perché non rispetta le regole della concorrenza, evade completamente le tasse. Prendendo spunto da questa polemica, Paoli scrive una lettera aperta al direttore del Corriere della Sera per intervenire in merito alla tutela dei diritti d'autore in Italia. Che non devi capire, che non devi scoprire. Gentile direttore, prendo spunto dalle polemiche strumentali, ma desidero anche ringraziare chi mi ha fatto pervenire a titolo personale messaggi di condivisione e di sostegno che hanno suscitato le mie dichiarazioni sul Teatro Valle, questione minore di cui non mi voglio più occupare perché il rischio è quello di qualificare i miei interlocutori o peggio far loro una gratuita promozione che non meritano, per provare ad aprire un serio, sereno dibattito sulla tutela dei diritti degli autori e più in generale sulla tutela dell'industria culturale del nostro paese. L'industria culturale è una delle pochissime industrie realmente italiane del nostro paese. Chi crea e produce contenuti dà, direttamente o indirettamente, lavoro ad oltre 1,5 milioni di persone e rappresenta il 5% del PIL nazionale. Eppure, i diritti di chi crea opere dell'ingegno e di chi investe nella loro produzione sono aggrediti e calpestati quotidianamente, a volte nella generale indifferenza. Le grandi e miliardarie lobby multinazionali degli internet service provider, anziché tutelare i produttori di contenuti, si arricchiscono con la pubblicità dei siti pirata, non pagano le tasse nel nostro paese, non producono lavoro e conducono, paradossalmente sostenute da Confindustria Digitale, campagne informative di stampo populistico contro l'equo compenso per copia privata, rappresentato come una tassa e non come un compenso, che nel nostro paese è molto inferiore alla Francia e alla Germania, dovuto ai creatori delle opere dell'ingegno e non considerando che senza quelle opere i loro sofisticati strumenti tecnologici sarebbero dei pezzi di latta senza un'anima. Molti rappresentanti delle istituzioni si ricordano solo della libertà degli utenti, che non sarebbe minimamente intaccata, ma non di tutelare i nostri diritti e la nostra libertà creativa. Tra alcuni anni, se non si pone rimedio, assisteremo a un nuovo mecenatismo fatto da questi signori e solo chi sarà nelle loro grazie potrà lavorare e creare contenuti che spesso non saranno frutto di libertà di pensiero, ma dovranno essere necessariamente al servizio delle loro politiche commerciali. Chi conosce la mia storia personale sa che ho riflettuto molto prima di accettare l'onere e l'onore di presiedere la Società Italiana degli Autori e degli Editori. Da questo incarico ho tutto da perdere e nulla da guadagnare, sia per età anagrafica, sia perché ho avuto la fortuna di fare una carriera che mi ha portato fama e, non voglio nasconderlo, perché pago le tasse, anche agiatezza economica. Ho accettato di fare il presidente della SIAE perché credo che alla mia età, e avendo avuto la mia fortuna professionale, si abbia il dovere di restituire qualcosa agli altri. Mi riferisco soprattutto ai miei colleghi meno fortunati e a quelli più giovani, a cui vorrei trasferire la necessità di fare questo lavoro non per raggiungere la fama e il denaro, ma perché si senta che quello è lo scopo della propria vita. Se si lavora con passione, spesso arrivano anche la fama e il denaro, che non possono e non devono essere tuttavia lo scopo primario che deve guidare un autore o un artista in generale. Anche noi siamo dei lavoratori, ma soprattutto siamo lavoratori che non riescono a far sentire forte e chiara la loro voce, che non possono e non vogliono più essere figli di un dio minore. Vogliamo, possiamo e dobbiamo reagire e combattere per cambiare regole e acquisire una giusta dignità. Noi, evidentemente, siamo contro l'illegalità e riteniamo giusto in un paese civile rispettare le regole anche se non ci piacciono, ma siamo pronti a lottare per cambiarle e questa è quella che consideriamo un'azione civile. La nostra, caro direttore, è una battaglia di dignità, di civiltà e di libertà, battaglia non più rinviabile. Avete ascoltato la lettura della lettera aperta di Gino Paoli al direttore del Corriere della Sera, pubblicata il 2 dicembre sul quotidiano milanese.